Dicevo, il prezzo internazionale dell'oro è schizzato alle stelle. Qui vediamo anche il proliferarsi, insomma, di botteghe, negozi che fanno compravendita dell'oro a 37 euro al grammo, cifre di questo tipo, il che significa che poi c'è un ricarico da parte di chi lo compra enorme, quindi è un'attività, diciamo così, ultra redditizia. E questo prezzo internazionale dell'oro così alto ha fatto sì che in parecchi paesi del mondo miniere abbandonate di oro, giacimenti di oro abbandonati perché non più convenientemente sfruttabili, dato che si erano esauriti, dato che l'oro era ormai in tracce in percentuali bassissime, tornano ad essere sfruttati. Con che cosa? Non più con i mezzi tradizionali. Qui si è fatto un notevolissimo passo avanti, che tra l'altro è mutuato dalle tecniche di estrazione dell'uranio, delle miniere d'uranio, e sono procedimenti chimici, cioè non più semplicemente la escavazione di minerale di partenza che poi viene lavorato, ma qui si parla addirittura di campi, di coltivazioni, proprio nel vero senso della parola. Ci sono tecniche per cui i terreni di questi giacimenti, in cui le concentrazioni o di uranio o di oro, insomma, mettiamoli per un momento sullo stesso piano, sono talmente basse che la quantità di materiale che bisogna estrarre e poi lavorare con procedimenti chimici è enorme. Allora, in alcuni casi addirittura si fanno delle perforazioni nel terreno, tantissime perforazioni, dei piccoli pozzi in cui viene iniettato direttamente dell'acido, che serve in pressione, che serve proprio a sciogliere e fare una sorta di fanghiglia che poi viene ripompata da grosse pompe, e quindi si avvelena letteralmente in terreno con queste tecniche, insomma, con questi acidi che sono acido solforico o altri tipi di acidi. Questo per quanto riguarda l'uranio. Per quanto riguarda l'oro, le tecniche sono diventate simili, non solo perché si possono coltivare, tra virgolette, questi campi dove la concentrazione è estremamente bassa, ma comunque, come abbiamo sentito da Yannis che ce lo raccontava, qui si parla, nel caso della calcitica, di 1 miliardo, stime, insomma, grosso modo, nell'arco di 20 anni, 1 miliardo di tonnellate di minerale di partenza da estrarre, che poi viene trattato chimicamente. Qui si parla di cianuro, perché ogni minerale ha il suo reagente più adatto da impiegare, e comunque parliamo sempre o che sia acido solforico, che sia cianuro. Insomma, il cianuro per certi versi è peggio dell'acido solforico, perché è letale proprio nel vero senso della parola, non che l'acido solforico faccia bene e né ai denti né alle gengive, ma il cianuro è decisamente letale. Quindi questo significa avvelenare definitivamente il terreno circostante, proprio farne un deserto nel vero senso della parola. Sì, quello che diceva il compagno, cioè un'intera montagna con alberi secolari alti come 10 piani che diventa polvere. E già ci sono comunque delle immagini che fanno vedere quello che ha lasciato la vecchia estrazione, chiamiamola così. Poi ricordiamo che non si parla solo di oro, ma si parla anche di rame, che è un altro metallo che c'ha un grosso mercato, insomma, se lo fregano, sapete, le cose di cronaca. Quindi, insomma, è veramente una devastazione totale a qualsiasi costo, come ci ricordava proprio Yannis, a qualsiasi prezzo. Quindi figuriamoci se non al prezzo delle vite umane, che se si oppongono a questa devastazione poi vengono chiamate terroristi e insomma, ci ha detto, lo ricordiamo, che sono ormai quasi 50 le persone che sono state prese assolutamente senza nessun mandato, senza nessuna nemmeno apparente pretesto legale, esclusivamente perché persone che da anni, insomma, conducono questa lotta, e portate senza che i familiari sapessero dove, nelle questure, nelle camere di sicurezza, e qui, insomma, trattenute per ore e sottoposte a questo prelievo forzato, assolutamente senza nessun appunto appiglio legale di elementi che facessero risalire al DNA, evidentemente per confrontarli con dei reperti che dicono di avere trovato sul luogo di questo assalto al cantiere nella foresta di Scuries. Ecco, qui diciamo c'è da registrare un salto di qualità, e non solo da parte, diciamo, delle forze di repressione, della magistratura, della polizia, con questi sequestri, queste imposizione della prova del DNA, ma il salto di qualità è anche nella lotta, insomma, anche questo non va sottaciuto, insomma, va preso atto che questa lotta che viene portata avanti da anni contro l'insediamento di questa miniera, e che si è esplicitato nelle solite forme tradizionali delle manifestazioni, dei blocchi, hanno scavato delle trincee letteralmente sulle strade per impedire ai mezzi che andavano a costituire il cantiere di passare, eccetera eccetera. E l'ultima azione è stata veramente un'azione che deve aver fatto tremare le vene ai polsi allo Stato greco, insomma, no? Anche da un punto di vista così della immaginazione di quelli che possono essere le capacità di resistenza da parte di un'intera popolazione, e cioè l'ingresso in un cantiere presidiato con attrezzature e anche vigilato, diciamo così, di 40, così dicono le descrizioni degli organi di stampa, di 40 persone, tra cui alcune armate di fucili da caccia, non si capisce bene, insomma, che hanno sequestrato i vigilanti, li hanno immobilizzati, dopodiché hanno dato fuoco a tutto quello che poteva essere bruciato, significa che insomma, la situazione ha sicuramente mostrato un segno di svolta, insomma, nelle capacità di resistenza da parte di queste popolazioni, e sì, altrettanto sicuramente deve aver insospettito o sicuramente allarmato quello che le forze di polizia, la magistratura, appunto, che a questo punto ha deciso di passare ad una azione proprio a tappeto di screening della popolazione, dei screening dei soliti noti, diciamo così, perché poi si fa presto, insomma, nel momento in cui c'è una lotta di massa di questo tipo si vanno a prendere i presunti capi, i responsabili, le persone più in vista, li si costringe, li si fanno letteralmente sparire, insomma. Qui c'è da mettere in conto che di alcune persone non si ha notizia, sono state prelevate, poi ritrovate o non ritrovate, insomma, nottetempo. No, vabbè, tutti i 50, insomma, poi sono tornati a casa. Fra l'altro c'è stato un presidio immediatamente, subito i primi prelevamenti della popolazione di questi paesi, che si è piazzata, insomma, in massa davanti alle stazioni di polizia reclamando, perché ovviamente poi, pur non sapendo che fine avessero fatto i loro compaesani, però immaginavano quello che era successo, e quindi, insomma, hanno presidiato queste stazioni di polizia tutta la notte e nei giorni successivi, chiedendo a gran voce, appunto, il rilascio o quantomeno notizie su questi fermati e queste fermate. E poi il paese, appunto, ogni volta che venivano rilasciati, insomma, festeggiava anche suonando le campane. Fra l'altro, su questo la stampa, tutti i media hanno abbondantemente inzuppato il pane, sono state diffuse notizie assolutamente false, come per esempio che i vigilantes del cantiere fossero stati picchiati e cosparsi di benzina. Le stesse telecamere di sicurezza che hanno filmato l'accaduto hanno poi smentito completamente questa versione assolutamente falsa. Va bene, allora per adesso concludiamo questo, insomma, redazionale. Per fortuna abbiamo parlato con il compagno, ci siamo riusciti, e adesso ancora un pochino di musica.